Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Nel 2010 la Commissione europea stilò una lista di 14 materie prime strategiche. In realtà una di queste erano tutte le terre rare, che sono da sole 17, ma insomma alcune sono più note, come la grafite o il cobalto. Altre dicono poco o nulla ai non addetti ai lavori, come spato fluoro, niobio, neodimio o itrio, ma sono tutti materiali essenziali per produrre beni diffusi quali telefonini, celle fotovoltaiche, fibre ottiche e molte altre cose ancora. Nel 2014 questa lista è stata aggiornata ed estesa ad altre 6 materie prime e si prevede che a breve, a maggio, con il prossimo aggiornamento, crescerà ancora. Il problema è che l'approvvigionamento di alcune di queste materie così importanti è o rischia di diventare molto critico. Che fare? Ebbene, il progetto SCREEN, che sta per Solution for Critical Raw Material European Expert Network, è un progetto finanziato con 3 milioni di euro dalla Commissione europea e nasce appunto per tentare un approccio strategico a questi problemi. Ne parliamo con Giovanni Di Girolamo della Divisione Tecnologie e Processi dei Materiali per la Sostenibilità dell'ENEA, che in Italia è il riferimento nazionale del progetto. Buonasera Di Girolamo. Buonasera Melis. Senta, allora Di Girolamo, intanto le chiedo che cosa rende una materia prima critica dal vostro punto di vista? Perché non è così banale, non basta che una materia sia rara, una materia rara e inutile, per esempio, certamente non è critica. La criticità di una materia prima dipende essenzialmente da due fattori, importanza economica e rischio di approvvigionamento, o meglio questi sono i fattori che vengono utilizzati a livello ufficiale per andare ad stabilire se inserire o meno una materia tra le materie prime critiche. Ovviamente una materia può essere considerata critica in base alla sua rarità o alla insostituibilità della stessa materia prima, perché potrebbe essere ad esempio concentrata in una determinata zona non accessibile, potrebbe aumentare il suo prezzo e così via. Ovviamente la criticità può cambiare nel tempo, certo, perché in base alle nuove tecnologie, in base ad eventuali condizioni geopolitiche, una materia può ovviamente modificarsi quanto a criticità. Diventare strategica tempo. Quando prima pensiamo al litio, oggi si parla spesso di questa questione del litio, che sembra è molto importante per fare delle batterie leggere, ed è una materia molto concentrata eccetera eccetera, ma fino a qualche anno fa non interessava molto la cosa. Esattamente. Ecco, voi cosa farete quindi? Creeremo un network di esperti che sarà chiamato ad analizzare le priorità per gli anni a venire nel campo delle materie prime critiche, nel campo dell'attività mineraria, nel campo del riciclo e dell'eventuale sostituzione delle materie prime critiche. Questo perché l'obiettivo sarà quello di raccogliere dei dati, delle informazioni realistiche e di convogliarle in una roadmap per gli anni futuri, certo, una strategia a livello europeo e che poi sarà recepita anche a livello nazionale, che indirizzi le politiche nel campo delle materie critiche per gli anni a venire. Ecco, perché c'è un tema di individuare quali sono le materie critiche già oggi, quali lo diventeranno in futuro, quali magari smetteranno di essere critiche in futuro, ma c'è anche un tema di come affrontiamo l'argomento. Lei ha appena parlato di riciclo, ha appena parlato di tecnologie sostitutive, anche questo tipo di analisi è parte del vostro lavoro. Certamente, ovviamente non esiste una ricetta comune per ogni tipo di materiale. Quello che noi andremo a fare sarà analizzare le catene del valore nei singoli settori di interesse, nei settori critici, prioritari, che possono essere il settore dell'energia, il settore dell'ICT e dell'elettronica, il settore dei trasporti, e andremo a considerare quanto un materiale è critico in ciascuna applicazione relativa a questi settori. Per esempio, se noi pensiamo l'indio noi lo ritroviamo oggi come oggi in tantissime applicazioni, come nei nostri smartphone, sì, nei display, nelle luci a LED. Molto spesso è insostituibile l'indio, perché in teoria la sostituzione andrebbe fatta non solo a livello di materiale, ma anche di nuova tecnologia. Cioè non si può fare la stessa tecnologia con un atomo, con un elemento diverso dall'indio, bisogna proprio cambiare tutto. Ecco, questo è uno degli aspetti, mi sembra, più importanti. Voi cercherete per esempio di capire se ha più senso puntare su una strategia di riciclo per un certo materiale o di sostituzione, che vuol dire magari anche cambiare completamente tecnologia. No, il litio, dicevamo, è un atomo che ha delle caratteristiche uniche e non c'è un altro atomo uguale. Quindi se si cambia, se non c'è più litio, bisogna proprio cambiare la tecnologia, non si può sostituire il litio. Certamente, certamente, è un problema che esiste anche per i magneti permanenti, certo, utilizzati che diceva prima. Nei motori elettrici. In quel caso è quasi impossibile al momento, con la tecnologia presente, sostituire il neodimio, il disprosio, cioè le terre rare che costituiscono questi magneti, per cui è molto più semplice adesso pensare a una possibilità di riciclo. Va bene, grazie, grazie Giovanni Di Girolamo. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.